Magic. Magic. Magic. Magic. The magic moment. Magic. Zeffiro, amore, sognaccia. Magic. The magic moment. Ma il suo sogno contro un muro infrangerà. Magic. Dormi sopra un raggio bello come solo un Dio ti avesse disegnato. Avesse immaginato. Come se fossi caduto e l'amaro del tuo eroe t'avesse abbandonato. T'avesse abbandonato. Io sono il vento, il dio del vento e soffio sopra le città e il mare. Ti cerco, poi ti trovo, poi ti perdo, senza te non so restare. Invece si stringevano come due lottatori al tempio. Io non mi davo per vinto, la mia furia per Giacinto pose fine a quel suo tempo. Io sono il vento, il dio del vento e soffio sopra le città e il mare. Ti cerco, poi ti trovo, poi ti perdo, senza te non posso. Yeah.